4C. Ascolta e rispondi. Ascoltate la musica? Sì, ascoltiamo la musica. Guardate la TV? Sì, guardiamo la TV. Preparate le valigie? Sì, prepariamo le valigie. Tornate tardi? Sì, torniamo tardi. Giocate a calcio? Sì, giochiamo a calcio.